addormentarmi così. Fra le tue braccia, mentre tu mi baci sempre più, addormentarmi così. Sul tuo respiro, labbra sulle labbra, e non svegliarmi più. Bocca, bocca, cuore a cuore, soffrire insieme, morire insieme, addormentarmi così e non svegliarmi più. Non svegliarmi più.